Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Adesso noi parleremo di una cosa che sapete benissimo che cos'è, ma probabilmente non ve la siete mai spiegata. Sei d'accordo, Chiara, che è così? Sì, è un po' un indovinello. Adesso in questo minuto ci penseranno lo tutti. Lo chiariamo. Benvenuti a Mebius. Adesso i titoli e poi incominciamo. Lo sapevate che nello stomaco e nell'intestino ci sono 500 milioni di neuroni? Sono concatenati tra loro e distribuiti lungo i 9 metri dell'apparato digerente. Per questo spesso si parla dello stomaco come secondo cervello. Qual è il meccanismo che ci fa percepire alcuni odori come sgradevoli e altri come profumi irresistibili? La domanda di questa settimana è di Edoardo di Viterbo. Un piccolo frammento di DNA può contenere 100 milioni di ore di filmato in alta qualità. Un gruppo di ricercatori britannici ha messo a punto il metodo per archiviare un'enorme quantità di dati su un supporto genetico. Steve Jobs era autoritario e aggressivo, il classico esempio del leader incontrastato. Questo tipo di personaggi forse hanno fatto il loro tempo. Oh, noi cominciamo. Qualcuno magari ci sarà arrivato, l'indovinello di prima, ma non si sa. Allora, vabbè. Uscì un libro tempo fa, adesso tu ricordano. Sì, allora nel 2006 precisamente, il titolo era Il secondo cervello di Michael Gershon, non so se l'ho pronunciato bene. Diciamo che principalmente non fu letto molto e forse non se ne sa molto, come dicevamo nei titoli. Spesso si parla di secondo cervello come lo stomaco o in realtà l'apparato digerente, ma in realtà non si sa bene di cosa si stia parlando. In realtà ci sono dei neuroni, proprio delle cellule neuronali, tante, abbiamo detto, riprendo subito il dato, sono 500 milioni sparsi appunto nei 9 metri del nostro tubo digerente. Per saperne di più, insomma, per capire bene che relazione c'è tra cervello, stomaco, intestino e colon, siamo andati a Bologna e precisamente abbiamo con noi il professor Pietro Cortelli, buonasera. Buonasera. Buonasera Cortelli. Lei è dell'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna e ha recentemente partecipato alla stesura di un articolo che è uscito, mi sembra, sul Corriere proprio su questo tema. Direi di iniziare da una parte introduttiva. È vero che ci sono così tante cellule neuronali? Sì, sì. Il nostro intestino, in particolare il colon, ha delle strutture specifiche che sono proprio dei neuroni, cioè delle cellule che sono identiche a quelle che sono organizzate nel nostro cervello e si riuniscono in reti particolari che si trovano o sotto la mucosa oppure sotto la parte muscolare dell'intestino, e queste reti colloquiano tra di loro per una buona funzione gastrointestinale. In più il nostro cervello è direttamente collegato con l'intestino, questo attraverso il cosiddetto sistema nervoso vegetativo, che è quella parte del nostro sistema nervoso di cui noi non abbiamo, diciamo, coscienza del funzionamento. Ma c'è. Sostanzialmente c'è e si occupa dell'80% delle nostre funzioni, che sono, diciamo, dalle più, in inglese si dice housekeeping, cioè legate a un basso lavoro di manovalanza. Le domestiche. Domestiche come quelle vescicali, urinarie o appunto gastrointestinali o cardiache o del funzionamento del polmone, a quelle più, diciamo, elevate che sono proprio le nostre percezioni emotive. Noi ci svegliamo con l'umore che abbiamo, non con quello che decidiamo di avere con la nostra coscienza, che colorano un po' quello che è tutta la nostra giornata. In tutto questo c'è un colloquio tra il cervello vegetativo e il sistema gastrointestinale. Ecco, lei dice colloquio, ma una qualche loro autonomia ce l'hanno pure o no? Ce l'hanno. Questo è stato il motivo per cui all'inizio del Novecento i fisiologi di Cambridge chiamarono sistema nervoso autonomo proprio quello dell'intestino, perché se si tagliava un pezzo di intestino e si metteva in un liquido simile a quello in cui sostanzialmente è fatto i nostri liquidi biologici, l'intestino era in grado di muoversi nello stesso modo in cui si muove quando è funzionante dentro l'organismo. Quindi attenzione, il nostro intestino potrebbe prendere delle decisioni al posto nostro, magari anche migliori. No, esattamente delle decisioni cognitivo, ecco. No. Non crediamo, ma delle decisioni in senso motorio, sì. Anche quando è un pezzo di intestino, per dire, post-chirurgico, viene posto in quella soluzione che vi dicevo prima, l'intestino continua a contrarsi in maniera da espellere in senso aborale, quindi dall'alto al basso, quello che è il suo contenuto. Questo collegamento tra cervello e intestino cosa comporta? Cioè, le cosiddette sensazioni viscerali, che cosa stabilisce che questo effetti rapporto? Produce? Questo rapporto stabilisce molto per quanto riguarda una serie di disturbi gastrointestinali che si chiamano funzionali, tipo il colon irritabile o altre malattie tipiche che vengono curate dagli amici gastroenterologi, che sono una situazione paragonabile ad avere una soglia del controllo di quell'organo non perfettamente funzionante, quindi si hanno delle iperfunzioni per stimoli, diciamo, non appropriati. Dall'altra parte, il nostro cervello è continuamente informato di quello che avviene nell'intestino, in termini sia ovviamente di qualità digestiva, ma soprattutto ha l'esatta misura dell'apporto energetico su cui può contare, e quindi questo per il cervello ovviamente è un punto chiave per continuare a organizzare tutte le nostre funzioni in maniera appropriata. Quando riceviamo una notizia brutta, una sensazione forte, quando ci si contrae lo stomaco? Praticamente subito. Ecco, rientra sempre in questo rapporto? Esattamente. Ah, okay. Cioè, fanno parte di tutte quelle alterazioni somatiche che sono state riassunte in quella che viene cosiddetta medicina psicosomatica, che ha le basi neurobiologiche della medicina psicosomatica, sono proprio queste, cioè il rapporto tra il sistema nervoso vegetativo centrale e il controllo vegetativo dei diversi organi. Quindi le emozioni possono modificare il funzionamento degli organi, e una malattia in un organo può modificare le nostre emozioni. Quindi è in questa interazione, questa chiave interpretativa, che effettivamente ci permette di comprendere appieno molti dei disturbi che ci raccontano i nostri pazienti, e quindi trovare poi delle medicine adeguate. Quello che dicevate è proprio la classica cosa. Ho le manifestazioni somatiche, per esempio dell'ansia, hanno a che vedere molto col tratto gastrointestinale, che chiaramente sono completamente normali se a noi quell'attacco d'ansia ci viene, se apriamo la porta di casa e troviamo un leone. Sono meno normali se questo ci viene per stimoli banali, come può essere uno sketch televisivo o una brutta telefonata. Grazie Cortelli, davvero interessante. Bene, è stato un piacere. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up. A me, Federico, questo discorso fa venire i brividi. È uno dei più grandi discorsi della storia contemporanea, Martin Luther King. Io ho un sogno. In un certo senso, adesso infatti tu introdurrai il tema. Sì, ci aiuta a introdurre il tema. No, ma il fatto che si colleghi a una struttura fondamentale della vita. Potremmo dire, forse una forzatura, che questo discorso ci è entrato nel DNA. Ecco. Ma ora, ecco, ve lo spieghiamo, nel senso che la notizia è stata pubblicata, una ricerca importante pubblicata su Nature da un gruppo di ricercatori britannici. Hanno messo a punto un metodo per archiviare dati, tutti i tipi di dati, tra cui appunto, e da qui il collegamento, questo discorso di Martin Luther King in MP3, dove l'hanno archiviato, hanno trovato un metodo per archiviarlo nel DNA. Su un frammento di DNA. Su un frammento di DNA, anzi su un piccolissimo frammento di DNA. Questo vale a dire che un piccolissimo frammento, tanto per farti un numero, potrebbe contenere 100 milioni di ore di filmato in altissima qualità. Uno sfracello, uno tantissimo. Sfracello. Questo com'è possibile ed è verosimile? Cerchiamo di capirlo con un esperto. Qui con noi stasera Vittorio Murino, buonasera. Buonasera. Lei lavora all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e dirige un dipartimento che appunto si occupa di computer vision. La visione, ecco, come dire, è verosimile, perché tutto questo in realtà è possibile. Archiviare un MP3 piuttosto che un documento scritto. Ecco, no, non ci sono forzature. No, è possibile, è una strada. È possibile archiviare qualsiasi informazione digitale su un supporto, diciamo, biologico come il DNA. Il fatto che in un piccolo frammento ci siano così tanti dati dipende da una struttura di base che noi chiamiamo TRIT. Adesso lei mi aiuti a spiegarlo, perché i computer funzionano con un bit, che è un sistema binario, no? Quindi sì, due numeri. Zero. Due numeri, 0 e 1. Perfetto. Diciamo. Invece nel caso del DNA funziona con un TRIT, un sistema ternario. Sì, in questo caso la base non è più binaria, cioè non è più base 2, ma è una base 3. Quindi sì, l'interazione tra questi numeri, quindi 0, 1 e 2, è nettamente superiore rispetto a quella del bit, che è solo 0, 1, un ordine di grandezza in più. Beh, diciamo che si possono codificare informazioni in maniera diversa, in realtà dipende, diciamo, posso codificare in qualche modo in maniera più fine, ma il tutto poteva essere anche fatto con soltanto due elementi. Il fatto che è stato fatto con tre aumenta altre caratteristiche del supporto, come la sicurezza del dato, ecco, la ridondanza. Ecco. Nell'inserimento di dati su un supporto metallico, che quindi è il chip che abbiamo oggi, no? Noi utilizziamo un orientamento, no? delle molecole del metallo, insomma, con un procedimento che è di tipo elettronico. Nel fare la stessa cosa su una sostanza, ci passi questo biologica, termine per capirci, no? Su una sostanza molle come il DNA, che cos'è che cambia in questo processo? No, in realtà il supporto diciamo di silicio su cui noi andiamo a memorizzare i dati, diciamo, con una parte magnetica, è in qualche modo, diciamo, codificato per rappresentare l'informazione 0-1. Sì. Quindi, diciamo, orientato in un modo, orientato nell'altro, sì, dallo 0 dall'1. Certo. In questo caso noi andiamo direttamente ad usare un materiale, una base del DNA, per codificare un valore. Quindi noi abbiamo essenzialmente tre elementi biologici diversi, diciamo così, che rappresentano la nostra tripletta di numeri, che in qualche modo codificano l'informazione 012, diciamo. Ma non usiamo nessun tipo di trattamento esterno per magnetizzare in un certo modo piuttosto che in un altro. È certo, proprio, diciamo, la base biologica che è diversa per rappresentare il numero che vogliamo rappresentare. Quindi è un'informatica completamente diversa dall'altra, da quella che abbiamo. Certo, qua si parla DNA computing. Biocomputing, infatti. Biocomputing. Sì, biocomputing, sì, sì. DNA computing. Biologico. Dovrebbe darci più potenza, più capacità di calcolo? Ma dunque, dal punto di vista, qui il discorso si fa un pochino più complesso, in realtà non dovrebbe esserci più capacità di calcolo o una maniera diversa, cioè una maniera diversa di fare computazione che può andar bene per certi problemi specifici che possono essere adattati in qualche modo al meccanismo biologico. Diciamo che è veramente uno studio di frontiera, non ci sono molto di frontiera. Senta, io so che, non so se anche lei lavora su questo, ma c'è un sogno, insomma, che sul quale però si fa ricerca, e voi informatici elettronici lo fate, e cioè la possibilità di avere dei software che poi abbiano una loro capacità di autogenerarsi e anche di evolversi, no? di produrre una propria capacità di diventare sempre più sofisticati con una loro autonomia. E allora viene un po' l'immagine che, certo, se ci agganciamo a delle strutture come di base, come il DNA, che per definizione, insomma, è una struttura evolutiva, forse si potrebbe arrivare a realizzare questo sogno. Beh, diciamo, per quanto ne so io, so che esistono software evolutivi che in qualche modo evolvono, diciamo così, nel tempo, sì, ma come meccanismo interno. Poi si parla molto di software, diciamo, che evolvono e si adattano, ma qui andiamo, diciamo, sulla parte di intelligenza artificiale che è, diciamo, un po' come noi, no? Come l'essere umano in qualche modo impara dalla sua esperienza e quindi riesce ad adattarsi a diverse situazioni. Una macchina ancora adesso non lo fa, ci si sta lavorando e quindi diciamo, forse in un futuro che non sarà probabilmente tanto prossimo, comunque qualcosa si riuscirà a fare. Diciamo che dall'altra parte c'è il supporto su cui andiamo a fare computazione, diciamo il software per ora gira sui calcolatori, farlo girare su un materiale biologico è a livello, diciamo, di come lo stiamo trattando la notizia dell'articolo su Nature, cioè ci sono gruppi di ricerca che lavorano sulla parte memorizzazione dei dati attraverso questo materiale biologico, ci sono gruppi che lavorano sulla computazione di problemi con questi supporti biologici. Da lì andare, diciamo, il passo oltre è quello di vedere software evolutivi che lavorano su questo tipo di supporti. Meglio stare, diciamo, un po' tranquilli, insomma, non è... Sì, diciamo che comunque i software evolutivi, come dire, sono, quelli dico artificiali, sono dati sviluppati in software, sì, ma pensando a meccanismi biologici, quindi il meccanismo inerente è quello biologico, lo si riproduce invece su altri supporti, certo. Esatto, e si riproduce in maniera artificiale, cioè attraverso appunto le righe di codice. Si arriverà comunque, come dice lei, adesso fare una previsione un po' prematura, secondo me. E senta, un aspetto importante che lei prima ha soltanto accennato era questo. Allora, la grossa novità di questo studio non sta tanto nella, come dire, nella quantità di dati che si possono archiviare in questo modo, ma bensì nell'utilizzo di questo metodo perché appunto possa durare più tempo e possa non diventare obsoleto. Ecco, vorrei che ci spiegasse un pochino questo passaggio. Dunque, intanto la quantità di dati dipende effettivamente, c'è anche un problema di quantità di dati, nel senso che non è, diciamo, l'uso del TRIT o della terna, ecco, sì, che ci permette di aumentare la quantità di dati, ma è tanto che io posso memorizzare in un supporto biologico che ha la dimensione, diciamo, di pochi micron, di pochi, sì, millesimi di millimetro dell'informazione, mentre adesso ho bisogno comunque di una chiavetta che sarà lunga qualche centimetro, okay, quindi già c'è un problema di dimensionalità, sì, inerente. E poi, diciamo, questo supporto adesso con l'ingegneria genetica con cui si riesce a sequenziare il DNA in maniera, diciamo, abbastanza standard e sempre meno costosa, uno riesce a memorizzare all'interno di punto di poco spazio con questa tecnica di ingegneria genetica un'informazione che sarà sempre leggibile da tutti. Se voi pensate, ecco, sì, se voi pensate ad esempio che a volte quando fanno dei ritrovamenti, diciamo, di scheletri, si riesce a estrarre il DNA da quegli scheletri, vuol dire che noi siamo, diciamo, il DNA si riesce a conservare nel tempo, per milioni di anni, per migliaia, sì, di anni, e quindi questo lo chiamano anche, diciamo, un supporto apocalypse proof, cioè a prova di apocalisse, nel infinito, senso infinito, quasi in teoria infinito, chiaro che deve essere conservato in un certo modo, perché le memorie digitali invece, ecco, sono abbastanza deperibili. Cioè il problema è che le memorie digitali, i supporti sono obsoleti, nel senso che noi siamo partiti decine di anni fa con i floppy disk, per chi se li ricorda, siamo passati ai dischetti, siamo passati alle sole chiavette, abbiamo i CD-ROM, fra poco non ci hanno più, ci sono i DVD, ci sono altri supporti, diciamo tutta tecnologia che evolve e che magari per ragioni, magari non solo di ragioni anche commerciali, vengono, diciamo, lasciate trascurate nel tempo, magari fra 50 anni non avremo neanche più le chiavette. Credo che ci abbia spiegato abbastanza. Comunque noi avevamo all'inizio qualche titubanza, perché non è che tutto quello che viene fuori annunciato nella ricerca e poi, diciamo, ha sostanza, ci sono anche delle cose un po' forzate, invece lei ci conferma che questa è una cosa che è una strada che si sta praticando e potrà avere sviluppi. Sì, non è la prima volta, questo articolo, diciamo, il lavoro non è un lavoro che, diciamo, è nato in qualche mese. Certo, Ci sono stati altri lavori che in cui hanno dimostrato questa compatibilità di poter memorizzare informazione su questo tipo di supporti. Ci si sta lavorando per varie ragioni, proprio per il fatto di queste caratteristiche di miniaturizzazione del supporto, lettura nel tempo infinita, diciamo a prova del tempo essenzialmente. Noi potremmo, se voi pensate, diciamo per le generazioni future, ma parliamo appunto di migliaia di anni, potremmo memorizzare su questo supporto la nostra storia, la storia dell'umanità, e permettere che tra un migliaio di anni sia accessibile. In qualche modo è accessibile, oppure se vogliamo pensare in maniera ancora più fantascientifica, mandare su questo tipo di supporti, se noi lo mandassimo nello spazio, si manda attraverso questo tipo di supporto, che poi chi, se ci sarà qualcuno che potrà decodificarlo, potrà rileggerlo, ma stiamo parlando appunto di... Siamo davvero solo all'inizio. Grazie Morino. Grazie Morino, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Posso dirti una cosa? Sì, dimmi. Io questa me l'aspettavo, era tempo che aspettavo che arrivasse questa domanda. Allora, in realtà è arrivata così ben formulata, come adesso sentiremo dal nostro ascoltatore Edoardo di Viterbo, se non sbaglio, ma in realtà c'era arrivata anche in altre forme, forse un po' meno eleganti, e avevamo deciso di lasciarle lì un po' in stand-by. No, così ben formulata. Così ben formulata, sentiamola dunque la domanda di Edoardo. Vorrei sapere se il nostro olfatto, nei distinguere i profumi e gli odori gradevoli, è dotato di una classificazione naturale, a cui possono aggiungere o sovrapporre un'altra, condizionata da fattori soggettivi, culturali e sociali. Cioè, cosa distingue un odore ripugnante da un profumo, comprese le innumerevoli varietà intermedie? Allora, ringraziamo Edoardo per averla esposta in questa maniera così raffinata ed elegante. In realtà è come, perché percepiamo la puzza. L'odore sgradevole, ecco, certo. Poi c'è dentro anche quelli più tremendi. Ecco, ovviamente noi abbiamo il nostro esperto di riferimento. Questa settimana siamo andati da Maria Luisa De Mattè. Benvenuta. Buonasera Maria Luisa. Lei è psicologa e ricercatrice della Fondazione Edmund Mach, che ci ricordi dov'è? San Michele all'Adige. San Michele all'Adige. Quindi un pochino più a nord rispetto a Trento. Ecco, a lei l'ingrato compito, o non so, il meritevole compito di raccontarci come funziona il nostro olfatto. Beh, è un compito un po' duplice, quindi ingrato è vero. Perché è complicato, ma è molto piacevole perché occupandomi di olfatto mi piace molto, insomma, avere la possibilità, insomma, di dare di qualche spiegare un po' di cose, certo. È vero. Esatto. Ci dica. Beh, innanzitutto c'è da dire che il nostro sistema olfattivo è un sistema di allerta che fondamentalmente ci avverte se siamo in situazioni di potenziale pericolo. Basti pensare, che so, in prossimità di un incendio, quando c'è questo cattivissimo odore di fumo, ci allertiamo all'istante, piuttosto che in prossimità di cibi che stiamo per ingerire, che forse non sono adatti o comunque, insomma, salubri, potrebbero farci male. Per cui, insomma, il nostro sistema olfattivo svolge un grandissimo ruolo come sistema d'allerta per evitare di, sì, appunto, incorrere in qui situazioni però, potenzialmente pericolose. Mi sa, però questo è connesso, sì, al fatto che noi ci siamo bruciati col fuoco e quindi l'odore di fuoco è collegato a un'esperienza. L'odore di fuoco, sì, è vero, è collegato all'esperienza. Infatti il fatto che un odore sia piacevole o sgradevole per noi è una cosa che tendenzialmente impariamo. Però è vero anche che ci sono alcuni odori, anche se non frequentemente, pochi, che generano delle reazioni di evitamento, comunque manifestazioni sgradevoli. Tipo l'odore di uovo marcio. Esattamente, ecco. Tipo l'odore di uovo marcio. Quello esattamente è stato visto che nei neonati fa sì che questi neonati reagiscano a questo tipo di odore. Male. Male, con delle espressioni facciali proprio di disgusto. E qui non c'è esperienza di mezzo. E infatti, qui questa è una cosa innata che abbiamo. Esatto. Anche se prevalentemente noi categorizziamo gli odori, per noi sono piacevoli o no, per apprendimento, insomma. Anche perché noi apprendiamo la piacevolezza di un odore già prima di nascere, già durante la gestazione, quindi nella vita fetale, grazie all'alimentazione della madre. E questa è una cosa un po' sorprendente. Cioè sentiamo la pappa che mangia la mamma, la mamma mangia il pollo, noi sentiamo il pollo. E il pollo ci piacerà da grandi, forse. insomma, questo è semplifichiamo, un pochino per semplificare, però ad esempio è stato visto che in madri che durante la gravidanza assumevano spesso bevande o alimenti con il gusto di anice, poi nei neonati, già a partire dalle 8 ore dopo la nascita, questi neonati preferivano più di altri neonati il profumo di anice. Il pastis francese, che va moltissimo. O la sambuca, vabbè. Comunque. Esatto. Okay. Sì, ma stiamo semplificando, però la sostanza c'è chiara. Per sì. capire il meccanismo, come funziona? Sì. Cioè, noi ci entrano le molecoline nel naso. Sì. Da lì cosa succede? Beh, allora, diciamo che c'è una mucosa olfattiva all'interno del naso che cattura queste molecole. Queste molecole si agganciano ai nostri neuroni olfattivi, che a questo punto si attivano, entrano in attività e mandano dei segnali a diverse aree del nostro cervello. La particolarità dell'olfatto è che è l'unico senso che attiva direttamente anche delle aree legate alle emozioni, alla memoria, e anche delle aree ecco qua. Che elaborano gli stimoli più in profondità. Mi pare di capire che ci sia un'area sulla quale state lavorando che è ancora abbastanza oscura, perché l'abbinamento odore di fuoco, di bruciato è chiarissimo. Magari anche cose che riguardano quello che sentiamo quando siamo già nella pancia, però invece altre cose come il cavolo, no, sono misteriose. Ma io sto pensando anche al fatto, chiunque abbia dei gatti ma anche dei cani, se gli fai sentire la buccia di mandarino scappano, no, di 1,5 metri. E a noi piace moltissimo, a loro no. Ci sono anche delle zone misteriose. C'è una zona grigia sulla quale state lavorando che non si capisce? Beh, in realtà il sistema olfattivo è misterioso di per sé. Infatti noi conosciamo già tante cose sul sistema olfattivo, ma tante rimangono ancora sconosciute, ancora oscure, anche perché è un sistema difficilmente indagabile, mentre per un sistema visivo, ad esempio, è facile manipolare gli stimoli visivi in maniera controllata e quindi fare anche degli esperimenti controllati. Per quanto riguarda invece il sistema olfattivo, è molto difficile gestire gli odori, gli stimoli. Il nostro sistema olfattivo è assolutamente molto complesso, per cui c'è ancora molto da fare, molto da capire, e tante cose si rimangono ancora misteriose anche per gli addetti ai lavori. Quindi in realtà la risposta, ci piacciono anche queste c'è, risposte, però è aperte. Certo, infatti De Matteo, insomma, qui bisogna ritornarci, dovremo riparlare ancora di questi odori, di queste molto cose. Intanto la ringraziamo volentieri. E ci sentiamo presto. Arrivederci, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. All'appuntamento SMAO, nell'area che si interessa di Smart City, appuntamento che c'è la prossima settimana a Bari, si toccherà uno dei temi più caldi, contraddittori e anche un po' paradossali per quanto riguarda il potenziale del nostro paese nel produrre innovazioni. In quale settore? Nel settore agroalimentare, nel settore del food, come dicono i tecnici, abbiamo una grande tradizione per quanto riguarda il cibo e dintorni, tradizione anche connessa con il turismo e in generale con la conservazione del patrimonio storico e culturale. Perché è un paradosso? Bene, ne discuto con Andrea Granelli. Buonasera Granelli. Buonasera. Amministratore del Gatto di Canso, ma insomma lei è un osservatore di tutti i processi, i progetti che riguardano Smart City, concentrandosi in particolare su queste potenzialità che sono dei grandi asset italiani, ma sui quali facciamo decisamente ben poco. In più ci arriva anche Expo 2015, che è proprio sull'agroalimentare. Va bene, ci dica qualcosa. Ma io penso che uno dei temi del tema Smart Cities, quindi come portare tecnologie nelle città, come portare infrastrutture, è il rapporto tra la città e il cibo. La città è un grande luogo di consumo, il cibo deve essere portato, stoccato, riutilizzato, c'è un tema di qualità del cibo, quindi tracciabilità, e le città incominciano ad affrontare questo tema. Pensiamo al tema delle serre urbane, quindi nei tetti si utilizza, c'è un grande caso a New York, Gotham Project, che produce molta, con tecniche idroponiche, molte verdure che vengono consumate direttamente nel quartiere. Benissimo, pensiamo al tema delle certo. catene corte alimentari, quindi ridurre la filiera per lasciare più reddito ai contadini e agli agricoltori, ma soprattutto migliorare la qualità, quindi un chilometro zero dove il prodotto alimentare si scandisce con le stagioni e non viene importato da 3.000 chilometri. Quindi secondo me va riletta la città, essendo il luogo del consumo del cibo, anche in quest'ottica c'è molto da fare. Le tecnologie possono giocare ruolo importante. Ecco, noi però in questo settore abbiamo assolutamente delle eccellenze, anche dal punto di vista della ricerca tecnologica. Ci sono dei centri universitari italiani che in tutto il settore agroalimentare sono centri di eccellenza a livello mondiale. Lei riesce a spiegarsi come mai non riusciamo a coniugare, insomma, questa potenzialità con il fatto di metterla in moto, insomma? Ma io penso che questi settori lavorano su alcune tematiche di frontiera, per esempio tutto il tema del packaging, del food design, sono tematiche importanti, le tematiche anche della selezione dei vini. A mio modo di vedere, in Italia c'è un po' uno scontro quasi culturale sul tema della tecnologia applicata al cibo, perché viene semplificata sul tema OGM, adulterazione del vino, quindi si è letta di questa dimensione tecnologica l'ondata un po' sbagliata, a mio modo di vedere, e quindi il discorso sembra quasi naturale, artificiale, no? Mentre la tecnologia abbraccia processi molto più ampi, no? Pensiamo per esempio al tema della tracciabilità alimentare, che mi permette di avere certezza che da quando viene colto per esempio un prodotto, che quando arriva nella tavola del consumatore ha seguito un processo controllato che quindi mi garantisce che il prodotto non è stato adulterato, eccetera. Questo è un tema che prescinde dal fatto che uso o no OGM piuttosto che metto sostanze strane nel cibo. Già, però invece questa tematica si è proprio ideologicamente quasi polarizzata, no? Tra una visione molto ruzzoviana della natura primigenia e un'altra molto tecnologica che arriva addirittura a produrre cibo quasi in maniera sintetica per gli astronauti. Così siamo bloccati. Tra l'altro, in questo seminario, in questo appuntamento, ci sarà anche un dialogo su un altro tema che so che lei conosce molto bene, che è quello del turismo, della valorizzazione dei patrimoni storici e culturali. Anche lì abbiamo, per esempio, lei ricorda spesso, l'ho sentita in qualche convegno, sottolinea come siamo il paese che ha un numero impressionante, no? Di centri storici di enorme valore, e però sia per il turismo che anche per i cittadini, vabbè, insomma, sono lì, ecco, niente di io più. Io penso che ci siano delle grandi similitudini tra il tema del cibo e il tema del patrimonio culturale, perché sono entità che hanno certamente un valore economico, ma il significato va molto al di là. Tra l'altro anche il cibo è un prodotto culturale, cioè c'è una dimensione simbolica nel quello che mangio, cioè, quindi c'è molta similitudine. Anche lì poi è lo stesso, cioè la tecnologia può essere di grande aiuto nel patrimonio culturale, ma è qualcosa di molto moderno che io innesto in qualcosa di molto antico, e quindi c'è sempre un po' la paura che questo innesto snaturi in qualche modo il patrimonio antico, no? In qualche modo ne cambi la forma. Invece ci sono tecnologie neutre. Il problema è che la tecnologia deve ritornare a essere uno strumento, e delle volte invece diventa un fine esso stesso, e allora lì sì che tende a sostituirsi quasi con gli oggetti, con gli artefatti, col cibo, col patrimonio culturale, e allora lì entriamo in un ambito molto comune. Ma invece riportare tecnologie nei centri storici, valorizzare ma anche combattere e monitorare la pressione antropica, perché un luogo molto visitato al turista viene consumato, perché il turismo consuma, perspira, quindi tocca un patrimonio fragile. Ecco, secondo me bisogna proprio riportare, penso che il dibattito che faremo, diciamo, a Bari sarà questo, cioè far emergere le grandi potenzialità della tecnologia anche a settori che non sono solo la meccanica, ma sono il cibo o il patrimonio culturale, però stabilendo quali sono le condizioni che permettono alla tecnologia di proteggere, migliorando, rigenerando, ma non cambiando il contenuto, in questo caso del cibo piuttosto che del patrimonio culturale. Va bene, allora ricordiamo, se ne discute a Bari nell'appuntamento SMAO il 6 e il 7, quindi della prossima settimana. Grazie Granelli e buon lavoro. Grazie a lei, a presto. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vediamo se riesco a introdurvi in modo chiaro questo tema, che a mio parere è piuttosto affascinante ma non è banalissimo. Allora, intanto comincio a presentarvi gli ospiti che abbiamo appunto per discutere questa cosa. Nicola Palmarini, buonasera. Buonasera. Lei dirige per IBM lo Human Centric Solution Center. Sì. Che potremmo tradurlo, insomma, è un centro nel quale vi interessate di soluzioni che riguardano le attività organizzative e lavorative, e fa human centric, cioè centrato dal punto di vista umano, insomma, è un po' questa la definizione. Sì. Va bene. Passo invece al secondo nostro ospite, che è Achille Orsenigo. Buonasera Orsenigo. Buonasera. psicologo, in particolare dedicato fortemente alle attività di lavoro. Lei fa parte dello studio APS, che, lo dico io, è uno dei centri principali, insomma, di intelligenza in Italia per quanto riguarda tutti i temi complicati dell'organizzazione del lavoro e delle dinamiche di collettivo. Perché vi ho messo insieme? Beh, intanto il dato singolare è che c'è un personaggio di una grande azienda, la IBM, che si sta interessando di questi problemi che riguardano come si lavora, come si prendono le decisioni e anche come si prendono male, immagino, oppure Palmarini, insomma. In un momento in cui, e questo è un po' il focus anche attraverso alcuni articoli che lei ha fatto, in un momento in cui dal punto di vista storico viviamo in un periodo dove abbiamo visto un certo crollo di molte capacità decisionali, di molte attività decisionali, e qui ci riferiamo anche a strutture di tipo politico, ma anche alle aziende grandi, medie, a volte anche in quelle piccole, forse in quelle piccole è un po' più facile. Naturalmente qui, perché altre volte abbiamo affrontato temi di questo genere, lascio da parte il fatto che sappiamo perfettamente come alcuni disastri che abbiamo vissuto negli ultimi 3-4 anni non erano incapacità decisionali, ma insomma c'era una certa attenzione voluta a creare guai. No, parliamo invece delle difficoltà reali. Dall'altra parte invece, Orsenigo, e insomma voi da anni vi interessate di che cos'è la procedura decisionale e delle difficoltà che essa implica, soprattutto intorno alla figura del decisore, alla figura del personaggio leader, del condottiero che deve prendere appunto delle decisioni strategiche. E qui quello che emerge come un dato abbastanza interessante a cui fa riferimento è questa biografia di Steve Jobs che è uscita ultimamente, alla quale sono anche seguiti diversi articoli di commento, biografia e insomma storia di questo personaggio, dal quale lentamente emerge il fatto che insomma sì, ha avuto certamente delle idee geniali, però era un individuo inavvicinabile, un individuo estremamente autoritario, estremamente antipatico, insomma, ecco, cioè, e quindi è venuta fuori tutta una discussione su questa figura dell'appunto leader decisionale che probabilmente va rivista. Io incomincerei da lei, Palmarini, perché in questo suo testo, anche recente, Lavorare o collaborare, che poi lei ha declinato anche in un altro modo e parla di collaborare, no? C'è tutta un'analisi, insomma, di questa necessità di cambiare i processi decisionali. Ci dica qualcosa. Ma sì, credo che alla luce di tutto il movimento che, diciamo, i social media hanno portato nella vita quotidiana e quindi nella vita delle persone, e le persone lavorano nelle organizzazioni e quindi all'interno delle organizzazioni, credo che ci sia davvero un'opportunità oggi, ma anche ovviamente nel futuro prossimo, di diventare organizzazioni trasparenti, una definizione che già nell'89 Gianni Vattimo come dire aveva messo sul piatto, sì. E di vedere attraverso i livelli organizzativi, quindi l'occasione di abbattere tutte quelle pareti che strozzano la conoscenza sfruttando la potenza di una tecnologia che è vero che sta nelle macchine, ma è anche vero che è definita in modo essenziale dalle persone che fanno parte dell'organizzazione. Cioè mi sembra che siamo davanti veramente alla possibilità di rimettere in gioco il capitale umano come mai prima d'ora forse. Tra l'altro le organizzazioni hanno questo compito non banale di rappresentare l'interfaccia nei confronti di tutti i cambiamenti sociali, perché è vero che se ci occupiamo degli aspetti politici ad alto livello questi sembrano, come dire, afferire a tutta la popolazione, è anche vero che poi chi si trova in mano a gestire quella persona è il datore di lavoro, che ha una responsabilità da un lato di interfacciarsi col mondo economico, ma dall'altro di lavorare per quella che, virgolette, è la felicità della persona. Sì. E la felicità passa sicuramente attraverso il tema del lavoro, che non è chiaramente l'unico, ma è uno di quelli fondativi anche di questa Repubblica. Quindi lei dice questi strumenti contemporanei che abbiamo, che sono quelli che vengono definiti di social network, quindi la possibilità di interagire molto facilmente con il pubblico, con quelli che appunto poi sono l'audience, per esempio, di un'azienda, consentono forse di rompere quel meccanismo invece tipico decisionale centralizzato che per tante ragioni ha fatto il suo tempo. Ecco, però Orsenigo, mi sembra di poter dire che la cosa singolare è che voi psicologi del lavoro lo dite non da 2 anni, neanche da 3, ma da tanto tempo, e l'avete studiata questa cosa, però non si verifica. Cioè la vostra esperienza sul campo è che c'è ancora questo meccanismo leaderistico decisionale? Ma direi di sì, giustamente, nel senso che c'è da un lato un interesse a pensare anche a modalità di funzionamento più, diciamo, evolute e più capaci di adattarsi a un mondo turbolento. E quindi ci sono delle organizzazioni che diventano sempre più complesse, e anche da un punto di vista razionale non è pensabile che un leader, un capo, un vertice sia in grado di controllare in modo capillare quello che accade e quindi assumere delle decisioni efficaci. E quindi ci sono anche approcci che si fanno avanti attualmente dicendo sì che bisogna scambiare più comunicazione, bisogna collaborare più ampiamente. Però tra il dire che bisogna e quello che si riesce a fare c'è un bel varco, nel senso che a me sembra che molto spesso sia chi è in una posizione di vertice, che magari afferma l'utilità del collaborare più diffusamente, sia chi è nella posizione di collaboratore, diciamo, è attraversato da delle ambivalenze molto forti, perché da un lato i capi hanno molta difficoltà a delegare, che delegare vuol dire poi fidarsi di altri, perdere una capacità di una possibilità di controllo secondo modalità tradizionali, e d'altra parte i collaboratori si trovano a doversi prendere delle responsabilità consistenti, e non è che in situazioni complesse e confuse che viviamo le persone sono così contente di far questo. Quindi quello che succede è che mi sembra che nella realtà ci sono dei movimenti molto oscillatori. Sì, cioè abbiamo probabilmente individuato bene il problema. Questa grande crisi che ha messo in crisi anche i processi decisionali forse sottolinea fortemente la necessità di un cambiamento, però per il momento la sua esperienza è che siamo ancora abbastanza lontani da vedere segni forti di cambiamento. Sì, diciamo che ci sono nelle organizzazioni in cui lavoriamo ci sono alcune organizzazioni, alcune parti delle organizzazioni che funzionano in questo modo più evoluto, con una effettivamente coinvolgimento molto consistente delle persone, e non lo fanno, diciamo, principalmente per ragioni etiche, anche per ragioni etiche, ma lo fanno perché vedono che è una soluzione più efficace per, ad esempio, fornire dei servizi che i clienti apprezzano. Però, scusa, volevo aggiungere questo anche perché lei faceva prima accenno anche allo scenario politico. Effettivamente poi si vede che di fronte a questi movimenti c'è un desiderio più profondo delle persone di potersi illudere che ci siano dei capi che risolvono la questione. Quindi c'è una forte personalizzazione, questo anche all'interno delle organizzazioni lavorative, come si vede sulla scena politica. Poi le persone si rappresentano che ci sia qualcuno che al fin dei conti è in grado di risolvere tutto. Dopodiché non è così, ma anche nella mitologia aziendale, mi sembra che per quella che è la mia conoscenza delle situazioni, ci sono dei quadri molto più complicati. Molto più complicati. Palmarini, certo, qui a me è abbastanza sorpreso che un'aziendona come l'IBM abbia un reparto come il suo che ha quasi una dimensione, diciamo, filosofica. Può essere forse che in grandi aziende si sia percepito di più il problema di questa rigidità dei meccanismi decisionali? Ma allora, sicuramente se lei ha a che fare con quasi 500.000 di persone che lavorano in 160 paesi in tutto il mondo, la questione se la deve porre. È impossibile gestire 500.000 persone con culture diverse, con obiettivi diversi, con sogni diversi, attraverso un unico processo verticalista e dirigista. Non si può. Che però si è fatto, parlavamo di Jobs, no? Ma adesso non più. Perché c'erano diversi, non c'era la possibilità di condividere informazioni e logiche come si può fare oggi, ad esempio. Non c'era la possibilità di mettere in piedi modelli di quello che viene definito crowdsourcing in maniera estesa. Non sto dicendo che questa sia la strada definitiva, non sto dicendo che sia una novità. No. L'introduzione del flex time, cosiddetto, credo sia proprio una delle invenzioni di IBM già di 20 anni fa, ad esempio. Sì. Cioè permettere alle persone, anche formalmente, di lavorare in orari molto diversi, in contesti molto diversi, permettere alle persone di ragionare al di là dell'aspetto dello spazio fisico dell'ufficio, perché l'ufficio è anche un'entità che cambia, così come cambia tutto quello che ci sta attorno. È la possibilità di far sì che i contesti in cui le persone lavorano possono esprimere il massimo, e se non facessimo così, tutta quella mole di brevetti, noi siamo ancora l'azienda che ha il record di brevetti da ormai credo da 12-13 anni, tutta quella capacità di pensiero come fai a tirarla fuori se ti limitassi semplicemente a un processo verticale? Poi è vero che siamo in una fase di crisi di leadership, ma non credo che dobbiamo guardare l'organizzazione, basta guardare all'ambito in cui ci muoviamo a livello internazionale, non solo nazionale, e si capisce chiaramente che forse c'è una carenza di leadership, ma perché il mondo oggi forse ha bisogno di leadership o si appoggia su leadership diverse. Questo si riflette a volte anche nelle organizzazioni. Però ad esempio, se un segnale andava dato, ad esempio noi, ma ci sono tantissimi altri esempi, abbiamo come CEO a livello mondiale una donna, ed è un segnale molto forte per un'azienda che ha 102 anni e che rappresenta, se volete, quell'immagine dell'informatica molto maschile. Sì, in realtà sì. Così non è. Sì. Le chiedo un'ultima cosa invece, Orsenigo, rapidamente. Parlavamo delle grandi aziende. Nell'azienda piccola ci sono gli stessi problemi, quindi di un certo verticismo, oppure effettivamente la condizione collaborativa è forzata dalle dimensioni? Ma le due cose non sono in antitesi. Peraltro uno dei clienti con cui lavoro ha sviluppato un modello molto interessante, un'azienda tipo familiare con 180 anni di storia, e siamo riusciti insieme al presidente e a questo gruppo di dirigenti a costruire una cosa un po' diversa, nel senso che diciamo è un'azienda dove non c'è il direttore generale che è una figura forte, invece c'è questo gruppo dirigente che è riconosciuto nelle parti dell'azienda, alcuni lo guardano con perplessità, le persone più anziane, ma molto interessante perché è un nucleo che sta interpretando una funzione decisionale d'autorità in modo molto più elastico, che mi sembra che vada nella direzione delle cose che stiamo dicendo. Nicola Palmarini, Archilio Orsenigo, grazie e buon lavoro a tutte e due. Grazie mille, grazie a lei. E con questi sguardi verso un mondo collaborativo, io però vi rimando a una settimana. Ci sentiamo qui fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.